Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Tu sei bravo. No, ma che bravo. Sei bravo. No. Tu sei molto, molto bravo. I want to break free. Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Dichiara aperta la votazione. Favorevoli 372, contrari 51. Penso che questa sia una giornata di felicità per tutti noi italiani e italiane. Veramente dobbiamo essere orgogliosi che finalmente si apra una nuova pagina per il nostro paese. Con la fiducia purtroppo il Parlamento viene imbavagliato e in questo modo non si tiene conto che esiste una grande fetta del Paese che questa legge non la vuole. A mio avviso questo modo di fare è fascismo strisciante. Il nemico per noi sono mai gli altri, per noi il nemico è il diavolo e sappiamo che la Madonna ci ha detto che il diavolo oggi vuole distruggere la famiglia. Le nozze gay diventeranno legge per lo Stato, sappiamo che questa è l'ora dell'impero delle tenebre, non ci facciamo illusioni, questa è la vostra ora, però sapete che le cose che fa il diavolo durano poco, insomma. Tremate, anzi brindate amici del diavolo, ma Don Livio Fanzaga vi ammonisce, durano poco i vostri momenti, poco! Quindi brindate ora finché potete. È così, è il diavolo, è l'impero delle tenebre. La vita dura è una gran fregatura, se sei tu. Ma a volte uno strappo è una necessità. A chi va bene, a me va male, è solo un animale, sia tutta la storia. Sì, Don Livio Fanzaga sta passando dei momenti un po' difficili, direttore di Radio Maria. È il diavolo che si è insinuato un po' anche in Parlamento. Mamma mia, il diavolo! Per l'approvazione delle unioni civili, fatto storico, l'Italia è il 27esimo paese europeo a considerare legali le coppie dello stesso sesso. 27esimo paese europeo, cioè non è che abbiamo fatto una rivoluzione, 27esimo solo in Europa. Però ci sono tante belle notizie oggi. Per esempio, secondo me il diavolo si è insinuato anche a casa Berlusconi, a leggere almeno dalla Udite, udite, dalle motivazioni della procura di Bari, dei giudici di Bari, sulla vicenda delle cene eleganti. Sentite qui, I giudici hanno condannato moralmente le abitudini di vita e i riprensibili, ma come scrivono riprensibili, costumi extracostituzionali. Berlusconi era protagonista di cene poco eleganti durante le quali beneficiava della costante imprescindibile presenza di avvenenti provocanti, disinvolte, spregiudicate, disinibite e soprattutto giovanissime donne. Soprattutto! Arriva, arriva il diavolo! Che invidia c'hanno questi giudici che volevano trombarsene tutte loro, evidentemente. Berlusconi, Tarantini, quello che organizzava le cene, voleva far leva sulle debolezze sessuali dell'ex cavaliere per allietarne le serate e appagarne la libidine quando e come Berlusconi desiderasse. Ah, e le donne erano lì con la speranza di essere elette e trascorrevano la notte in sua compagnia, consentendo a soddisfarne anche le più perverse pulsioni erotiche, addirittura attraverso rapporti saffici, addirittura, ma che vergogna, che vergogna! Ma che sono, cioè, giudici o membri del Ministero della Prevenzione del Vizio e della Virtù dei talebani? Non lo so, lo chiedo a uno che alle cene eleganti avrebbe voluto essere sicuramente. Maurizio Bianconi, il nostro deputato. Buongiorno, Buongiorno, ma io veramente alle cene eleganti non avrei voluto essere in nessun modo proprio. No, neanche. Proprio no. Ma guardi, insomma, guarda la descrizione, a me hanno fatto già venire un po' voglia, capito, almeno un aperitivo ognuno, elegante. Ognuno, questi sono gli amici di quelli di quel prete del diavolo lì. Del prete del diavolo, sì, sì. Ma voglio sì, sono fanno parte di un'italietta che c'è sempre stata, no? Addirittura, ma... addirittura rapporti saffici, vergogna! Fanno il paio con Berlusconi, che invece di fare il primo ministro si confondeva a fare queste cose. Ah, vabbè, eccolo lì. Va bene, insieme a Maurizio Bianconi, il nostro onorevole, torna la nostra donna, che però pensa ad altro adesso, alla famiglia tradizionale, alla famiglia in cui i figli si fanno come si facevano un tempo, come si sono sempre fatti. Attraverso antichi rituali ancestrali di accoppiamento. Sì, sì, sì. Sì, è la nostra, sì, Aurora Lussana che sta ascoltando. Cosa ascolti? C'ho su l'elisir d'amore del Gaetano Donizetti. Non trionfa l'elisir. L'amore oggi. L'elisir? Sì, in qualche modo trionfa bella. L'amore. La perdoni, Bianconi, si sveglia così Aurora Lussana, con l'elisir d'amore di Donizetti. Voglio dire, meglio così che col diavolo, Meglio che così, sì, il diavolo che si insinua. Ma quello lì non è mica normale. Ma dove l'avete trovato quello? Ma chi quello lì? Don quello Livio del diavolo, quello del diavolo. Ma il direttore di Radio Maria, Don Livio Fanzaga. Sono qui a Erba, io sono di Cantura, Radio Maria è Erba. Esatto. Non è né un comico né un matto, è direttore di Radio Maria. Ma no, è il direttore di Radio Maria, padre Livio Fanzaga. Coraggioso. Guardi, è che un c'ha... uomo che cavalca la tigre. Ecco, guardi che c'ha anche la querela cavalca facile. Cavalca le coglionerie, mi pare, ma comunque. C'ha anche la querela facile, vabbè che lei ha l'immunità parlamentare. Quindi no, che... io non ce l'ho, sì, va bene. No, sì, ce l'ha. E poi se vuoi visitare la gente in quel modo lì, che bambini piccini. Ma no, ma che terrorizzare, cioè lui parla del diavolo che se uno è cattolico ci crede nel demonio, sì no, ma infatti il problema è dire che il demonio si è insinuato nel Parlamento, però adesso il nostro inviato in Parlamento Bianconi, anzi apriamo il Parlamento perché il nostro onorevole Bianconi ce lo deve dire. Questo è la voce del ministro Boschi, caro onorevole Bianconi, colei alla quale lei racconta il Corriere, no Aurora, è una cosa seria, ha fatto fatto il gesto dell'ombrello, dicono le cronache parlamentari. Sì, ma non è vero, non ho mentito, no. Non e io vero. Non ho fatto il gesto dell'ombrello, io ho detto questa qui viene qui, mette la fiducia, alza il sedere, gira il sedere e se ne va. E nel mentre ho detto se ne va, ho fatto il verso di uno che se ne andava, con la mano ben aperta, non vabbè, col pugno. E lei lo vede, lo dico, questo si vedeva bene, e ho detto questa qui è vattene, vero. Cioè era e così, lo, vattene. E lo vi dico, questa qui non è all'altezza di fare neanche l'amministratrice di condominio. E gli fanno fare il ministro delle riforme, capito? Il ministro dei rapporti col Parlamento, poi siccome non se la contenti gli ha dato anche le parole. Vabbè, ma quindi non le ha fatto il gesto dell'ombrello, ma no, vattene. Cos'era il gesto? No, vattene. Lei se n'è andata, ma lei ha fatto una cosa che non l'ha fatta nessuno, ma neanche Mussolini faceva una cosa così. Neanche questa Mussolini. È venuta alle 14:08, si è alzata, ha detto che metteva la fiducia su una questione etica, che non esiste al mondo, mette la fiducia, ha girato il sedere e se n'è andato. Hai visto Aurora, il diavolo secondo me è un po' Bianconi, no, è lui il diavolo. Ma onorevole Bianconi, lei deve capire che l'Alessandro Milan è incantato dalla Maria Elena Boschi. No, non è vero, eccola. Comunque, a proposito del demonio, scusa, la Maria Elena Boschi, adesso non so le tradizioni familiari, il suo babbo cosa le ha insegnato, però ha sempre detto che lei è cattolica, che è andata alle giornate mondiali. No, sono cattolicissimi, sono... Lui li conosce, no, sono di Laterina, sono cattolici. Cara Maria Elena, se sei cattolica, come fai a opporti alla visione cattolica universalistica proposta da Gesù Cristo? Cioè, se la Chiesa è il corpo di Cristo, se tu invece però valori posizioni non... Andare a Radio Maria con Padre Livio Fanzaga. La Maria Elena Boschi, io non so che gesto, a parte che l'onorevole Bianconi è toscano, no, è di Arezzo, credo, sì, non è di Arezzo. Quindi gli Arezzo va bene. Cioè, Come lei. Ecco, come la Boschi. La capisce bene sta donna. Vada a chiedere, allora, se uno valora le posizioni non ufficiali della Chiesa, di fatto macella il corpo di Cristo. Visto, no? Quindi allora, ma uno può essere una posta, ma dire, siamo io il 27esimo paese Milan, in Europa allora, a fare tu, questa allora, cosa. Allora tu perdi razionalità quando c'è di mezzo la Maria Elena Boschi e si entra la tua emotività. Ascolta una cosa, sei cattolico, sei contro le unioni civili, quindi i matrimoni fra omosessuali. Se sei una apostata, puoi anche dire sono favorevole alle unioni fra uomo e donna. Va bene, capito, Bianconi, qui c'è fuori dalla Chiesa cattolica. Bianconi, faccio un esorcismo a Aurora Luciana. Ma che vuol fare? Stamattina si sono levati tutti male. Cioè, voglio dire, una cosa è Dio e una cosa è Cesare. Che siamo il 27esimo paese, siamo arrivati buoni. E ma è lei che usa Dio quando le fa comodo e va alla giornata mondiale della gioventù dire sulla base. Lei ha ragione, ma come diceva giustamente il cardinale ora che era prima vescovo di Arezzo, il cardinale stava a Perugia, col quale è stato l'unico prelato con cui ha avuto un minimo di rapporti. Diceva che lui stimava la gente come me, per cui io ero laico e non gli andavo sotto le elezioni a chiedere voti. Mentre ci sono i cattolici impegnati in politica che sotto elezioni gli vanno a chiedere voti in nome di Cristo, e poi si fanno i cazzi loro per gli altri 5 anni, capito? E la Boschi è una di queste? La Boschi è una tradimento, ha le idee un po' confuse, capito? Però io per esempio il provvedimento l'ho votato, non ho votato la fiducia perché questi hanno messo, ma il provvedimento l'ho però votato. Bianconi, attenzione adesso, anzi avvocato Bianconi, ora arrivano gli obiettori di coscienza, la Lega ha detto ai sindaci fate gli obiettori di coscienza, non lo possono fare. Subito Bitonci, sindaco di Padova, ha risposto presente. E non sono, lo possono... sono le classiche guerre sante che il centrodestra fa prendendolo regolarmente nel sottocoda. Ricordo, lei è giovane, che nel 1974, se non sbaglio, fece il referendum contro il divorzio. E Fanfani Almirante si mise a capo di questa bella trovata, prendendo una inculata di quelle che ancora oggi gli fa male se fossero vivi. perché da allora in poi di centrodestra se ne è riparlato con Berlusconi. Sì. Cioè, sono battaglie di retroguardia. Battaglie, che non deve capito, capito Aurora, lo prendete nel sottocoda. Sì, no, poi, no, nel allora, sottocoda ripeto, a fare... Allora, massimo rispetto per chi non strumentalizza la fede, la religione cattolica a fine elettorale, a differenza di certe famigliole aretine, diciamo così, conterranee di Bianconi. Eccola, quindi detto questo, la... Ma di dov'è sta signora? Di dov'è? Aurora Lussana, allora, onorevole Bianconi, lei non la conosce. Parla Aurora... come la Beccalossi. Allora, come la Beccalossi. No, sì, no, le ha dato della Bresciana. Di mamma mia. Allora, Bianconi, le devo spiegare due cose. Ha dato ad Aurora Lussana di Bergamo della Bresciana. Queste cose non si fanno. Non si fa. È come se io, se io dicessi che lei è di Livorno, di Pisa. Va bene. Esatto. Va bene. Chiedo scusa. Poi la nostra Aurora Lussana porti rispetto doppiamente, perché è incinta, aspetta un bel bambino. Un bel bambino. No, aspetta, bambina, attenzione, sì. scusa, bambina, nonché è l'ex direttore della Padania e nonché moglie dell'onorevole Molteni della Lega. Quindi. Il mio amico, sono cenato insieme ieri sera. Ah, e c'erano anche delle belle signore in questa cena? Sì, ma non vi guardavano come? Sì. Bianconi, non devi dire di sì, c'era moglie, sì, no, c'era moglie al telefono. C'era la Santa Martini, colleghe, Aurora, tutto tranquillo. Ma colleghe, guarda, Milan, su, dai. Vabbè. Leggimi un sonetto lussurioso della Rettina. Parliamo di quelle robe qui, ma non della gelosia. Comunque, no, coniugale, dai, queste cose borghesi. Ti sembro una che. Ma su, no, vabbè. Comunque, Aurora, questo dei sindaci che fanno l'obiezione di coscienza è una grande minchia. L'obiezione di coscienza è prevista dal nostro ordinamento, si fa su no, si attenta, si faceva per esempio della leva, che è una cosa sacra, era una cosa sacra. So che Bitonci ha detto che venga Renzi, che andava al Family Day a celebrare i matrimoni gay a Padova. Non sono mica obbligati i sindaci, io conosco dei sindaci che fanno e ci sarà un assessore, lo farà un vice sindaco, ma poi sono obbligati, metterebbero reato se non lo ma sì, ma chiameranno non è applicabile la regola che c'era per l'aborto, perché lì non era voglio dire, qui c'è un pubblico ufficiale che è tenuto a fare un atto, non ma può sì, mantenere. Ma ci sarà ma poi, un consigliere, dire, un consigliere comunale di Sella che lo farà, ma infatti lo farà il consigliere comunale di Sella e sarà contento di celebrare tutti i matrimoni che non sono matrimoni poi tra persone dello stesso sesso. Va bene, io devo andare al traffico, però attenzione, perché continua il contest di come chiameremo la figlia di Aurora Lussana ed è l'onorevole Molteni tra poco. Silvio Milan, manda al traffico in Italia, in Europa e nel mondo, debusciato. Vorrei dire a tutti i cari giornalisti colti che fanno della questione dell'Islam un fatto che noi ci siamo andati a mettere lì, bisogna capire, bisogna conoscere, lasciai, vorrei dire solo una cosa, mandatevene a fanculo, va! L'unica soluzione è Napoli città-stato, come San Marino, come Monaco, come Liechtenstein, come pure il Vaticano. Napoli città-stato è l'unica soluzione. Cantù è una bella città, ma quando Aurora diventerà sindaco lo sarà ancora di più. Aurora, Aurora, Aurora. Vabbè, Aurora Lussana, sindaco di Cantù. Devo ancora imparare bene a fare la cassuola prima di diventare sindaco. Perché questo è l'esame per diventare. Cioè, si può candidare a Cantù solo se sai fare bene la cassola. Bella la mia Cantù. Ma un po' presidiata, perché qui vogliono fare le moschee, c'è un arbavetto. Quindi va presidiato il territorio. A proposito di liste, fai una bella lista. Bianconi, sai cosa hanno fatto questi della Lega? Hanno messo un bel fascistone in lista a Milano, c'è una grande polemica. Sì. Hanno messo il signor antisemita tale Parise. Parisi. Pavesi. Stefano Pavesi. Per lo toscano e i lombardi sono tutti la stessa cosa, Bergamo uguale a Brescia. Per loro, loro che sono chiedo scusa. Se l'è legata al dito questa. Mi dispiace. Gli ha dato della bresciana, non so. È stato io che non ho riconosciuto i fonemi. Aurora, facci un bel fonema delle valli bergamasche. Dai, una bella, quello che ti viene in mente, dai, dici qualcosa. No, di che ne che le mie, il fossito. Va bene, ecco, adesso sei capito. Poi ce l'ha con gli islamici, no? Esatto, una lingua esatto, che è esatto, è più araba, è più aspirata dell'arabo. Comunque, lealtà azione, bella questa nel lista, Come mai? Lealtà e azione è una... un'associazione di estremo destra che c'è a Milano. No, ma poi guardate, ho letto anche un'altra cosa sul Fatto Quotidiano. Senti qui, cara Aurora, non ti voglio mettere in difficoltà, ma Salvini ha preso una bella multa da 90 euro con l'Aurelio che guidava. Sì, l'autista. L'autista storico della Lega. Ho capito, c'è i centri sociali che lo rincorrono, cosa deve fare? Starli a prenderlo? No, ha detto che era con la scorta, ma dalla foto non sembra. Ma, ha fatto ricorso per pagare la multa. E dai! Vediamo, ho capito. Non è che mi sembra uno che è in giro così a divertirmi. Se guardi l'agenda di Salvini, in giro dalla mattina alla sera... Oggi mi pare che sia a Bari. Per quelli lì, sai, quelli che facevano la marcia degli scalzi pro-migranti e poi sono stati beccati per terroristi. Oggi ospite il sindaco di Bari alle 8:40. Ah, vedi. Quindi insomma dirò di passarmi Salvini, sì, mi passi Salvini, sindaco. Non credo. No, credo che Salvini sia impegnato. Non credo. Però come mai questi fascistoni in lista? No? Ma guarda, se adesso fascista, tenete dei fascisti a tutti. Questa reductio di Hitlerum come la Boschi, no? Come Casa Pound. Ma sì, per screditare qualcuno è come Hitler, come Casa Pound, un fascista. Vabbè, Bianconi è un po' fascistone. No, sono categorie del cavolo oggi come oggi, ma a mattina noia Pavesi, c'è qualcuno che lo vota. Oggi parlare di questa roba fa morire da ridere. Fa morire da ridere. Per esempio, Marchini, sa cosa ha detto Bianconi Marchini? Il più grande urbanista d'Italia, mi diceva mio nonno, è stato Mussolini. Ma ho capito, ma c'è questo modo. Allora, sai cosa mi è venuto in mente? Il mitico Benigni, senta qua, Benigni su Hitler, il toscano, il suo toscanaccio, Benigni. Ci ha fatto delle cose buone, certamente. Anche Hitler o Stalin, un ponte, una strada l'avranno fatto. Anche il mostro di Firenze l'avrà detto buongiorno a qualcuno qualche volta. Sarebbe come se io invitassi un elettricista a casa, no? Dico, scusi, mi rifà l'impianto, prego. Quello mi rifà l'impianto, fatto bene. Nel frattempo mi tromba la moglie, mi sventra la figlia, mi violenta la cognata, mi stupra il nonno, dico, ma questo è matto! No, però ha fatto delle cose buone. Guarda che capisce Bianconi, no? Ha fatto anche delle cose buone, anche Mussolini, Non si tratta di una valutazione di merito del buono e del cattivo. È vero che durante il fascismo c'è stata l'unica espressione urbana, l'ultima espressione dell'architettura urbanistica c'è stata lì, è vero. La stazione centrale di Milano, se il fascismo è stato una cosa buona o una cosa cattiva. Sì. È un dato durante di fatto. Il fascismo c'è stato Sironi, c'è stato Casolati, c'è stata un'effervescenza culturale derivata poi dal futurismo. È la famosa constatazione stile Boschi, come la Boschi. Chi vota con Casa Pound. Anche lì la Boschi dimostra tutta la sua grandezza, chi è, di cosa è capace, quale cultura abbia con quella cosa della constatazione, perché un certo Milan ha fatto una constatazione. No, sì, è lei. L'ho fatta io. Ha detto tutti i tedeschi. La mia moglie è una donna come la cicciolina. È vero. Constatazione. L'ho ridetta al Corriere della Sera ieri. Ho detto che Milan ha detto ha rubato. Una volta si citava Aristotele. Cioè, adesso citiamo Adesso citiamo Alessandro Milan. Siamo veramente alle pezze. Bisogna rivoluzionare e ribaltare un concetto che diceva un mio amico intelligentissimo. Sì. Diceva, chi salta prima delle 10 è capace di qualsiasi nefandezza. Io voglio cominciare a dire, chi salta dopo le 6:30 Cristo è capace di qualsiasi giusto, pandemia. Giusto, noi giusto. Noi ci alziamo presto la mattina, siamo veramente sani, quelli sani. Allora, della cultura nazionale. Allora, io ricordo, Aurorina, ci vuoi lasciare con una ricetta? Non ci lasci più con le ricette dicendo che sei incinta. E c'ho le nausee, Milan. Prova te. Io, cioè, scusami, io non so se tu hai fatto la surrogata lì, l'utero in affitto, no, non hai avuto problemi. Che no, sei... però non ho partorito neanche. Ecco, se uno fa una gravidanza, di solito c'ha le nausee. Quindi... va bene. Allora, facciamo così, niente ricetta, però no, al 349-238-6666 WhatsApp, continuate a mandarci, dobbiamo ancora fare un po' di rifornimento, i nomi di come chiameremo la figlia di Aurora Lussana e dell'onorevole Molteni. Per ora vince, credo, Maria Immacolata Concetta. Tradizione lombarda, tradizione longobarda. Esatto, o se no chiama la Libertà, Padania Libera, Italia, chiamala come vuoi. Allora, no, adesso te lo diremo noi. Mandateci i vostri nomi, i vostri suggerimenti per la figlia di Aurora Lussana. Intanto io vi mando un abbraccio. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Siamo qui, sono le 7:19 minuti, cari ascoltatori, pronti a tuffarci nella lettura dei giornali. E allora, eccoci qui, ovviamente molti aprono sulle unioni civili, ma non tutti, andiamo a sfogliarli. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali. Non so se oggi, padre Livio Fanzaga, per te che evochi il diavolo su Radio Maria per parlare delle unioni civili, comunque i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore sulle borse europee in rosso, vendita sui finanziari, mentre la maggior parte dei quotidiani apre sulle unioni civili. Ecco che cosa cambia, il titolo di prima pagina del Corriere della Sera, per Repubblica, unioni civili il giorno del sì, la Lega ai sindaci disobbedite. Per il Messaggero, unioni civili, ecco i nuovi diritti. Per la Stampa, l'Italia svolta sia le unioni civili. Mentre veniamo ai titoli, chiaramente, che contengono già un giudizio. Avvenire, una legge sbagliata. Mentre il giornale, Renzi sdogana la bigamia. Per l'Unità, invece, al cuore non si comanda. E il Manifesto, nozze all'italiana. Come vedete, i giudizi sono diversi, ci concentreremo poi nella lettura delle pagine dedicate alle unioni civili. Prima però i titoli di apertura di Libero e Il Fatto Quotidiano, anche perché aprono la mia rassegna stampa nell'approfondimento dedicato a varie notizie che ci sono sulle amministrative. Allora, Il Fatto Quotidiano e Libero titolano così: Libero, autogol di Renzi, così perde Milano, Sala è ineleggibile. E anche Il Fatto Quotidiano, ecco la prova, Sala si è dimesso per finta, come fa a candidarsi? Allora, questa vicenda riguarda uno scoop in realtà di Panorama, che viene ripreso da Libero e dal Fatto Quotidiano in evidenza, per dire appunto che Sala sarebbe ineleggibile, meglio, anzi, incandidabile proprio, secondo Panorama, ripreso poi da Libero e il Fatto. Perché? L'Expo diventa una trappola. Pagina 2 di Libero, Fabio Rubini. La tesi di Panorama è questa: Sala è stato nominato con un decreto del Consiglio dei Ministri a commissario ad Expo, e per essere sollevato dalla stessa carica non basta la lettera di dimissioni, serve un altro decreto di pari livello che avrebbe dovuto notificare l'accettazione delle dimissioni, nominando contestualmente un nuovo commissario oppure sopprimere la carica. Decreto che a Panorama non risulta esserci. Immediata è arrivata la smentita di Palazzo Chigi, che in una nota fa sapere che la lettera di dimissione è stata inviata il 15 gennaio e protocollata alla Presidenza del Consiglio il 18 gennaio. Beppe Sala dice: scoop di giornali di destra che non incidono molto sull'opinione pubblica, però scrive Libero, in realtà un po' di tensione c'è anche nel suo staff. Anche per Il Fatto Quotidiano, Sala si è dimesso per finta, è a rischio la corsa a Milano. Il Fatto Quotidiano propone anche un documento, la firma per candidarsi doveva lasciare il ruolo di commissario all'esposizione universale, Palazzo Chigi dice via da gennaio, ma un mese dopo il suo nome è ancora lì, c'è un documento a firma dottor Giuseppe Sala del 3 febbraio 2016 che viene riprodotto e fotografato e messo in pagina dal Fatto, quindi dopo le dimissioni, Sala firma ancora come titolare della contabilità speciale di Expo. E dunque si è dimesso, e allora perché firma ancora come commissario Expo? Insomma, diciamo che lui dice una vicenda surreale, il modo di fare certa stampa è ridicolo, però secondo Libero, secondo il Fatto, secondo Panorama c'è un giallo riguardo alla candidabilità di Beppe Sala, sarebbe clamoroso ora se ci fossero degli sviluppi che porterebbero la sua incandidabilità. Comunque staremo a vedere. Intanto Repubblica si concentra invece sulla nomina, sulla messa in lista, più che altro, di Stefano Pavesi. Stefano Pavesi, in lista con la Lega a Milano, fa parte di un gruppo di estrema destra, Lealtà Azione. Milano, il caso del leghista antisemita. Nella lista di Salvini, Stefano Pavesi, proveniente da questo gruppo di estrema destra, l'imbarazzo del centrodestra, anche il candidato sindaco Parisi conferma, spero che non venga eletto, non voglio nessun rapporto con certa gente. Tra l'altro, Repubblica condisce il tutto con un'intervista a Guido Bertolaso. Sì, lui, Guido Bertolaso, quello che era candidato sindaco fino a poco fa e poi ora appoggia Marchini, su ordine di Berlusconi, e dice, intervistato da Giovanna Vitale, parole molto tenere nei confronti di Salvini. Sentite qui Bertolaso: Salvini è un fascista che sputa sul tricolore e sostiene che il presidente Mattarella è un ubriacone. Sono io ad avere convinto Berlusconi che non potevo certo allearmi con un uomo come lui. Berlusconi lo ha capito e ha ribaltato il tavolo. Insomma, la polemica su questo candidato con la Lega a Milano e che appoggia Parisi. Ma signori, lo spettacolo delle amministrative ora si sposta dopo Roma, dopo Napoli, si sposta a Torino, dove c'è un signore su cui la stampa si concentra con un articolo di Giuseppe Salvaggiulo, un articolo spettacolare che io vi segnalo dalla prima all'ultima riga, lo trovate sulla Stampa, lo trovate sul Secolo XIX, è la storia del mago delle liste taroccate che fa firmare anche i morti, è la storia di Renzo Rabellino, definito dalla Stampa il più diabolico inventore di liste civetta, patacca, farlocche, taroccate, clonate, liste di morti e di omonimi, vere che sembrano finte, finte che potrebbero essere vere. Ha creato nell'occasione per le elezioni di giugno le liste No Euro, Lista del Grillo, Lega Padania Piemonte, Amici a Quattro Zampe, Precari Disoccupati Esodati, Difesa Automobilisti, Forza Toro. Si presenterà con queste liste Sguardo Vispo, Favella Rotonda, Pizzo Incolto, Cravatta Rossa, la storia di Renzo Rabellino. Ed è una storia straordinaria. Primi esperimenti Lega per il Piemonte, Piemonte Nazione, poi fu cacciato. Nomi e simboli confondibili con quelli veri drenano decine di migliaia di voti senza fare un comizio. Lui gira mercati, sagre, stadi con banchetti che inneggiano a cause animaliste, ambientali, umanitarie, firma contro la vivisezione, contro il canone Rai, le strisce blu, firma per ricostruire lo stadio del Grande Torino, e poi microscopiche righe in fondo citano le liste elettorali. Tu magari firmi e firmi a sostegno di una lista elettorale. Con questo sistema, scrive la Stampa, Rabellino fa contemporaneamente il consigliere comunale in tre città, Osasco, Massello, Cissone, in due province diverse, e raggranella gettoni di presenza nella quarta circoscrizione di Torino e nella comunità montana Valchisone e Germanasca. Alle comunali 2001 affina la dottrina. Rifiutato dal candidato di centrodestra Roberto Rosso, presenta una lista Rosso capeggiata da un omonimo scovato nell'elenco telefonico di Milano. L'omonimia vale 13.000 voti. Poi c'è il fenomeno Grillo, e allora lui inventa le liste Grillo Parlante, per esempio, e capolista tal Grillo Giuseppe detto Beppe, seguito dal signor Berlusconi Pericle. Beh, vabbè, ragazzi, un genio, un genio, un genio del male. E ancora, candidò Franco Buttiglione quando il centrodestra candidava il filosofo Rocco Buttiglione, Domenico Coppola contro il berlusconiano Michele Coppola, Nadia Incoronata Cota, moglie di un bracciante arruolata a San Severo di Puglia per infastidire il leghista Roberto Cota. Apoteosi, scrive La Stampa, finita in una condanna a 2 anni e 10 mesi di carcere per firme false. Ci sarebbe anche l'interdizione dei pubblici uffici, ma solo dopo la sentenza definitiva. E a 6 anni dal reato siamo ancora a quella di primo grado. Dunque, in assenza di riprovazione morale, lo show continua. E forse, conclude La Stampa, il problema di questa storia che evoca Pirandello e Monicelli non è Rabellino in sé, ma il Rabellino che è in tutti noi. Così sulla stampa la storia di Renzo Rabellino, raccoglitore di firme per liste Civetta. A proposito di amministrative, non è proprio amministrative, ma che succede con Salvini e una multa? Matteo Salvini, leader della Lega. Thomas McKinson racconta per il Fatto Quotidiano a pagina 7 che Salvini, anticasta, ha preso una multa. Per la verità al volante c'era lo storico autista della Lega, l'Aurelio, Aurelio Locatelli, 90 all'ora in un viale a Milano dove si poteva andare al massimo a 70, ma ha fatto ricorso, non vuole pagare con la scusa dei motivi di sicurezza, ha presentato ricorso contro l'ammenda, dicendo che viaggiava con la scorta, ma secondo il Fatto dalla foto si evince che non c'era alcuna scorta. Poi ha fatto ricorso per motivi di sicurezza. I legali ricordano che il loro assistito ha subito recenti e gravissimi attacchi alla persona, alla vettura su cui viaggia. Per questo la sua auto è regolarmente preceduta e scortata da vetture condotte da agenti delle forze dell'ordine. Ma ripeto, secondo il Fatto, in questa foto non c'era. Insomma, deve pagare, ma non paga Matteo Salvini una multa. Questo almeno racconta il Fatto Quotidiano. E invece, a proposito di regali, regaloni, ieri Dago Spia tira fuori un'altra storia di Rolex, smentita dal ministro alla difesa Pinotti, ma Dago Spia dice il governo del Kuwait di recente, per omaggiare il ministro alla difesa per un accordo commerciale Italia-Kuwait, ha dato allo stesso ministro Pinotti un Rolex da 40.000 euro e dei gioielli per le figlie. C'è Peter Bescapè che accarezza la sua penna nera degli alpini, del suo cappello degli alpini, e dice: accidenti, acciderbolina. Era proprio questa l'esclamazione che hai fatto. Acciderbolina, 40.000 euro. La Pinotti smentisce, dice: non ho preso, o meglio il Ministero della Difesa, non abbiamo preso nessun regalo, abbiamo sempre seguito il protocollo. Ma la polemica è servita. Il giallo dei Rolex alla Pinotti che imbarazza il governo. Questo è il titolo sul Corriere. No, scusate, sul Giornale. E così anche Libero, dal Kuwait, Rolex e gioielli alla Pinotti. Vabbè, staremo a vedere. Ma eccoci qui. Questo è l'articolo davvero che mi fa pensare della giornata. È una terribile storia di cronaca, raccontata da Luigi Ferrarella, pagina 23 del Corriere della Sera. Già il titolo dice tutto: impermesso premio violenta una sedicenne. Succede a Milano, dove è stato arrestato un detenuto che peraltro aveva quasi finito di scontare tutta la pena per rapina. E Ferrarella precisa: statisticamente farà parte dello 0,% di reati commessi da detenuti in permesso premio, prezioso strumento ponte tra la detenzione e il ritorno in libertà a fine pena. Ma intanto quello 0, sconvolge il mondo di una ragazzina di 16 anni dell'Interland milanese, aggredita sul pianerottolo di casa, costretta a entrarvi e lì violentata per mezz'ora da un detenuto in giorno di permesso premio dal carcere di Bollate. Mi fermo qui. Il titolo sul Corriere della Sera è eloquente: in permesso premio violenta una sedicenne. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo. State ascoltando un programma offerto da Gruppo Cassa di Risparmio di Asti. Scegli una realtà che vale. Messaggio pubblicitario. Alessandro Milan, grande tifoso squadra cinese dell'informazione. Dovremmo abituarci, chi lo sa. Caro Peter Bescapè, anche tu sei grande tifoso di squadra cinese. Anche tu, caro Lorenzo Nespoli, forse lo sarete, ma ne saremo orgogliosi. Allora, nonostante la regina Elisabetta dica che i cinesi sono maleducati, beh, tra poco, tra l'altro, questa notizia tornerà. Indovinate in quale sezione, signori, in quale sezione. Va bene, comunque dobbiamo ripartire dalle unioni civili. Allora, ieri approvata definitivamente la legge sulle unioni civili, alcuni punti che secondo me il Corriere mette giustamente a pagina 5 per capire. Intanto sappiate, cari italiani, anche quelli sdegnati a dire ma come, ma noi, l'Italia, ma cosa facciamo? L'Italia con questa legge diventa il 27esimo paese europeo a riconoscere legalmente le coppie dello stesso sesso. Lasciamo stare il mondo, ma solo in Europa siamo solo 27esimi arriviamo, cioè non è che abbiamo fatto la rivoluzione francese, abbiamo fatto una cosa che ci adegua ad altri 26 paesi. La Cirinnà introduce per le persone omosessuali unite civilmente l'obbligo reciproco di assistenza morale e materiale, quello di contribuire ai bisogni comuni, garantisce di fatto la reversibilità della pensione ed equipara il partner dello stesso sesso al coniuge per il diritto di eredità. Le unioni civili gay però non prevedono l'obbligo di fedeltà, non permettono l'adozione cogenitoriale, la cosiddetta stepchild adoption. I partner potranno scegliere il cognome da portare, se il proprio, o assumere quello dell'altro o unire i due. Dalla legge manca però un nome per i contraenti, non sono né coniugi, né mariti, né mogli. La Cirinnà regola poi anche i diritti e doveri dei conviventi di fatto etero gay uniti stabilmente da legami affettivi di coppia. Questo è un po' un riassunto di quello che succede. C'è una intervista molto bella a Ivan Scalfarotto, che è sottosegretario e che si è molto battuto, come dicevamo ieri, anche un'intervista all'Unità per questa legge. Ora Goffredo De Marchis lo intervista, pagina 6 e 7 di Repubblica, dice: ma ora si può sposare? No, aspetto che me lo chieda Federico, cioè il compagno, in un posto romantico, dice Scalfarotto. Mio padre è diventato presidente del circolo foggiano di Agedo, l'associazione dei genitori di figli gay. Oggi non c'è più e il circolo si chiama Gabriele Scalfarotto. Il motto era semplice: etero o gay sono figli miei. Ma come può una legge proteggere un giovane dalla scoperta della propria sessualità? Certo che può, dice Scalfarotto. Essere figlio di separati negli anni 60 era una vergogna, oggi è normalissimo, sarà tutto più naturale. Renzi lo disse alle associazioni gay quando saltò l'accordo con i 5 Stelle al Senato. E poi racconta Scalfarotto di presunte discriminazioni, insomma la domanda: ne ha avute di discriminazioni? Guardi, nei dibattiti pubblici venivo invitato io e uno del Family Day, io e uno di Manif pour tout, il movimento francese legato in qualche modo al Family Day. Se il criterio è quello dell'amore, allora vale anche il matrimonio con il cane, disse uno di loro. Mi alzai di scatto e dissi: Federico, il mio compagno, non è un cane. Rimasi, ma mi fu più chiaro il meccanismo e ho detto basta a questo aberrante par condicio. Non si mette sullo stesso piano chi chiede più diritti e chi li vuole negare. Come se accanto a un ebreo si dovesse mettere sempre un nazista o accanto a un nero, un membro del Ku Klux Klan. Però discriminazione anche da parte dei colleghi, dice Scalfarotto. Il PD una volta istituì un comitato paritario, 5 deputati e 5 senatori. Vado a uno di questi incontri, c'era Stefano Lepri, senatore del PD ultracattolico, mi blocca. Sei qui come governo? E io no, come Ivan. E lui gelido: allora sei un deputato, qui siamo già al completo, ti accompagno alla porta. Insomma, racconta Ivan Scalfarotto in questa intervista su Repubblica che il clima non è stato dei più facili, ma ora dice: ora esulto, anche se alcuni del PD mi dicono è colpa tua se il mio vescovo non mi saluta più. E a proposito di vescovi, intervistato da Gian Guido Vecchi a pagina 6 del Corriere della Sera, l'arcivescovo Forte, teologo, arcivescovo, dice: Così si svaluta la famiglia. Intervistato da Gian Guido Vecchi, appunto, sul Corriere, è una sconfitta per la democrazia, per la qualità del lavoro parlamentare e per la coscienza di tanti. Questo nell'intervista dell'estremo sunto sul Corriere della Sera. Mentre la Lega invita i sindaci a fare l'obiezione civile, e il primo a rispondere è Bitonci, sindaco di Padova, il boicottaggio di coloro che dovrebbero poi registrare le unioni civili. Per la verità, su Avvenire, il giurista Francesco D'Agostino, in prima pagina, nel criticare ovviamente questa legge, dice che le possibilità di fare resistenza da parte di chi lotta per la famiglia possono essere diverse. Pare altrettanto utile però segnalare con franchezza che non appaiono tali la prospettiva di una battaglia referendaria per abolire la legge, né quella di fare appello all'obiezione di coscienza di quanti saranno chiamati a registrare, non celebrare, come qualcuno pretenderebbe, ma registrare le unioni civili previste e regolate dalla legge. Non è questa la strada maestra lungo la quale sviluppare un impegno contro nessuno, per la famiglia e per un umanesimo che custodisce l'originalità della persona. Non è questa la strada, ma insomma, ovviamente Francesco D'Agostino, in prima pagina d'Avvenire, visto che Avvenire titola una legge sbagliata, critica molto il metodo e anche la legge in sé prodotta. Comunque questo è, cari amici. A proposito di famiglia, però, a proposito di, in qualche modo, di relazioni, diciamo così, mi ha molto colpito leggere sui vari giornali una vicenda che fino a qualche anno fa era in prima pagina, ora un po' derubricata nelle pagine interne dei giornali, ma Berlusconi e la sua vita privata e i processi. Perché mi ha molto stupito leggere le motivazioni, gli stralci delle 667 pagine della sentenza del processo Escort a Bari, soprattutto per il tono in cui i giudici censurano moralmente la vita di Berlusconi. Ma sentite qui, Berlusconi censurato per le sue condotte morali, leggo dal Giorno, le abitudini di vita e i riprensibili costumi extracostituzionali da parte di Berlusconi. Berlusconi, protagonista di cene poco eleganti durante le quali beneficiava della costante e imprescindibile presenza di avvenenti provocanti, disinvolte, spregiudicate, disinibite e soprattutto, udite, giovanissime donne. Ma è una roba insopportabile. E Giampaolo Tarantini, che voleva far leva sulle debolezze sessuali dell'ex cavaliere per allietarne le serate e appagarne la libidine quando e come desiderasse. E le donne, che andavano in sua compagnia consentendo a soddisfarne anche le più perverse pulsioni erotiche, addirittura attraverso rapporti saffici. Addirittura. Vergogna. E allora mi sono detto, ma cosa sono, dei giudici o degli esponenti del Ministero della Prevenzione della Virtù e del Vizio dei talebani in Afghanistan? Non lo so, ma non entro nel merito nella sentenza, però con questo dubbio cedo la parola a Mauro Meazza, non so, questo dubbio. Magari... Grazie, caro Mauro. Devo dire, quando proprio il pallone è facile da controllare. Da mettere in rete proprio, tac. Un assist potremmo dire. Sì. Scusa, posso fare un passo indietro alle unioni civili? Sì. Unioni civili e anche convivenze di fatto. Oggi sul Sole 24 Ore, una pagina intera con le disposizioni sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto, che pure sono regolate dal disegno di legge ieri approvato definitivamente, con anche i vari distinguo e gli obblighi che arrivano in più e quelli che invece non ci saranno, come è stato ricordato, non so, Sole 24 Ore, l'obbligo di fedeltà, ad esempio, che distingue queste unioni dal matrimonio. Oh, poi ti voglio parlare del bot, dei bot. I bot. Ecco, che così diciamo mettiamo la questione non più su vicende pruriginose, che magari a quest'ora sono un pochino fuori luogo. E ti voglio parlare dei bot, perché ieri il bot a un anno è andato in asta a meno 0,14. E questa è una notizia positiva, cioè c'è comunque gente che investe anche con presenza di un rendimento negativo. Ma se tu leggi Vito Lopes, oggi è pagina 2, tutto ti sarà più chiaro. Bene. Ieri ti sei distratto mentre io ti parlavo dell'IRAP dei piccoli, l'IRAP di chi ha un solo dipendente, che come ha detto la Cassazione niente, non la sai, niente. Va bene, non è più dovuta, ecco. Ma a certe condizioni. Quali? Ma è prof, era l'interrogazione, questa io non... Ieri è stato spiegato, morta la nonna, no? Sì, vabbè, il gatto ha passeggiato sul quaderno, eccetera. Allora, ieri è stato detto in classe, oggi su norme e tributi spieghiamo, perché ci sono certe condizioni, non è un automatismo che si crea per non pagare l'imposta. A proposito di imposte, sappi che Panama, te ne ricordi Panama? E come no? Panama ha siglato l'accordo per il CRS, scusa. Sì, sì, sì. Insomma, il Common Reporting Standard, vuol dire diventeranno trasparenti, daranno accesso ai dati anche da parte delle richieste, anche da richieste di altre amministrazioni. Quindi non mettere i tuoi due urini a Panama, questo è il senso. Che... avrei molte altre cose da dire, ma non vorrei essere riprensibile anche io per approfittare esatto. Del tuo tempo. Ma come scrivono poi, Giucci? Riprensibile. Ma riprensibile. Tu sei abbastanza riprensibile con il fatto che non eri preparato sull'IRAP. Sì, vorrei... riprensibile. Ecco, sei riprensibile. Ti vorrei segnalare, nelle pagine di norme tributiche, come sempre devi leggere religiosamente per non essere riprensibile, hanno ultimato le correzioni per il decreto legge che si è dedicato agli LSU, ma soprattutto con una serie di modifiche importanti per la scuola, con la previsione di pagare i supplenti entro 30 giorni e con l'aumento dei compensi per i commissari del concorsone. Leggi su norme tributi che ti farà bene. Bene. Traffico! Alessandro Milan, il Darth Vader dell'informazione! Viva, un abbraccino, caro piccolo ascoltatore. Ora devo leggere due messaggi a cui tengo molto. Marco da Modena ci fa sapere che oggi è la festa internazionale degli infermieri. E dunque una dedica a tutti voi infermieri che, come dici tu, sostenete il sistema salute italiano. Voglio anche salutare, ci sta ascoltando in questo momento dal Venezuela e ci dice buongiorno, anzi per me buonanotte qui in Venezuela, dove c'è un pueblo affamato, davvero la situazione è molto molto difficile. Un grande abbraccio anche a te e a tutto il popolo del Venezuela, caro ascoltatore. Vedete che straordinaria la radio. Oh, a proposito di questioni internazionali, voglio leggere l'intervista di Paola De Carolis sul Corriere della Sera al sindaco di Londra. Sindaco di Londra, europeo, asiatico, musulmano, il laburista Sadiq Khan, di origine pakistana, parla proprio anche delle sue origini, del rapporto con l'Islam, parla e risponde a una domanda su Donald Trump, che ha detto che per lei farebbe un'eccezione, sarebbe benvenuto negli Stati Uniti anche se musulmano. Sentite la risposta del sindaco di Londra. Adoro gli Stati Uniti, gli americani, ho due figlie e di conseguenza sono stato in tutti i parchi Disney, ho viaggiato molto. La mia opinione è che Donald Trump e chi lo consiglia sia molto ignorante sul tema Islam. Puoi essere occidentale e di fede islamica, le due cose sono compatibili. Io sono britannico di estrazione pakistana, sono europeo, sono un uomo asiatico, sono un londinese, sono un avvocato, un padre, un marito, un tormentato fan del Liverpool. Sono anche di fede islamica, abbiamo tutti molte identità. E poi dice, ovviamente, sono politicamente più vicino a Hillary Clinton. Occidente e Islam sono compatibili tra loro, io ne sono l'esempio, parla il neo sindaco di Londra, Sadiq Khan, di origine pakistana. Ho invece saltare da questa storia, come dire, internazionale, a questa storia locale, che vede protagonista un imam, una città, La Spezia, La Stampa che racconta tutto con Marco Menduni in prima pagina, l'imam guida le ronde anti-immigrati. Dopo una serie di episodi di degrado e violenza, con un commerciante italiano massacrato perché aveva rimproverato due stranieri che orinavano in mezzo alla strada, era stato tra i primi a far sentire la sua voce mettendo la faccia. E qui in giro ci sono troppi barboni, dice lui, troppi stranieri ubriachi, io ho paura anche per i miei quattro figli. Ed è uno straniero a dirlo, uno straniero integrato, Bouchaib Larsawi, marocchino, uno dei responsabili del Centro di Cultura Islamica di La Spezia. Ha la sua attività, una macelleria a Lalla, in Corso Cavour. Non è una zona periferica, è uno dei luoghi più suggestivi della Spezia, ricco di palazzi eleganti, attività commerciali, ma nel tempo è divenuto crogiolo di disagio. E allora, dice lui, ora faremo un team di aiuto civico e sorveglianza che veglierà sulla pacifica convivenza nel quartiere di Piazza Brin. Insomma, le ronde, chiamiamole così. La Spezia, le ronde dell'imam contro le violenze degli immigrati. Gli italiani gli danno ragione ed eccolo qua raccontato sulla stampa in prima pagina e poi a pagina 17. Oh, ci sono anche molte storie di cronaca da dire, notizie sulla scuola, ma non c'è tempo, non c'è mai tempo. Vabbè, intanto l'ennesima sentenza, questa mi ha colpito, il giornale dedica una pagina sulla figlia bambocciona, la figlia scansa fatiche che a 24 anni non ha ancora fatto un esame all'università, ma il Tribunale di Trento ha scritto un'altra pagina del libro sui bamboccioni obbligando il papà a mantenerla. Lei denuncia al papà che non gli vuole dare più i soldi, il tribunale dice le dà ragione e quindi dovrà pagare. Il giornale dedica una pagina a questo, la figlia è una scansa fatiche e il giudice dice la mantenga papà. Ora sono tante le sentenze in merito, non voglio neanche più spremermi, poi dopo mi criticate quando dico che i giovani non vogliono lavorare, come se io dicessi che tutti i giovani non vogliono lavorare. So benissimo che la maggior parte dei giovani non trovano lavoro, ma ci sono anche una bella sacca di giovani fancazzisti che non hanno voglia di lavorare, e non volevo ridirlo ma l'ho detto, non vogliono fare i sacrifici, va bene? E a chi dice, oh ma falli tu i sacrifici, io per anni e anni scrivevo sui giornali a 100.000 lire al mese, 100.000 lire, manco mi pagavo la benzina nel motorino, va bene? Va bene? Ma l'ho fatto. Ok, basta. Siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, oggi c'è ovunque la regina Elisabetta, che ha detto, ma non in un fuori onda, chiaramente era una roba pilotata, perché c'era la telecamera, non ero incoglionita, visto che c'era la telecamera, ho detto che i cinesi sono maleducati, i cinesi sono maleducati. E a me ha colpito l'intervista a Carlo Rossella sul giornale un'intervista a Carlo Rossella di Gaia Cesare. Sì, sono rudi e presuntuosi, sputano per terra, i cinesi sputano per terra, ma sì, i tedeschi bevono la birra e i turchi fumano, i neri c'hanno il ritmo nel sangue. Ma chi se ne frega!